Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ultime due settimane di campagna elettorale, in arrivo i big della politica, ipotesi Udine per la Premier Meloni, in regione oggi il ministro Sangiuliano. Crociere, debutto stagionale a Trieste con la lussuosa Artemis, fino a dicembre le toccate delle navi bianche vedranno il transito di 500.000 passeggeri. Cosa coltiveremo e cosa mangeremo nel prossimo futuro? Le riflessioni a margine della mostra di fiori e piante a Villa Manine. L'agricoltura riflette sui cambiamenti climatici, a Udine un convegno di Coldiretti. Mobilità sostenibile, pause di salute, esercizio fisico, nuova forma di sensibilizzazione allo Stellini di Udine, mentre a Pordenone parte tutti a scuola a piedi o in bicicletta. Lo sprint dell'Udinese riparte dall'ottavo posto. Per l'Europa siamo in corsa anche noi, dice l'allenatore Sottile. Serie C, Pordenone travolto a Novara, la Triestina trova un punto contro il Vicenza. Basket, sconfitte Apu e Gesteco contro Forlì e San Severo, squadre che lottano, ottimo viatico per i play-off. La nuova vita di Edi Reja sulla panchina del Gorica, Serie A slovena. Sono tornato a non dormire la notte, dice, proprio come ai bei tempi. Le 7:19 minuti di lunedì 20 marzo, buona giornata da Giampaolo Mauro e Dario Ronzoni, subito uno sguardo alla situazione del tempo, abbiamo cielo da nuvoloso a coperto sulla regione, ci sono piogge sparse, le temperature delle 6, a Trieste 10,5 gradi, a Udine 9, a Gorizia e a Pordenone 8,5 decimi, nell'area montana a Tolmezzo e a Tarvisio 4, a Forni di Sopra 3,5 gradi, a Sappada e sul Piancavallo 5 decimi di grado sopra lo zero, sul Lussari 1,5 grado positivo, sullo Zoncolan 1 grado. Sulla costa grado 10,5, a Lignano 8,5 gradi. E siamo alle previsioni. Oggi il cielo sarà inizialmente coperto con possibili debole piogge sparse. In giornata sarà possibile anche qualche rovescio, specie sulla zona montana. Dal pomeriggio tendenza a schiarite, foschie nelle ore più fredde su pianura e costa. La politica in primo piano con la campagna elettorale ormai in vista dell'epilogo. Il 2 e 3 aprile il voto per le regionali e le comunali che rinnoveranno 24 consigli municipali, tra cui quello di Udine. E proprio a Udine ci si prepara all'arrivo della Premier Meloni, un'ipotesi tra il possibile intervento di numerosi altri big. Sarà Udine il cuore della chiusura della campagna elettorale l'ultimo giorno, venerdì 31 marzo. Un modo per mettere insieme il voto regionale con quello comunale e mobilitare gli elettori, anche per scongiurare l'astensionismo già visto in Lazio e Lombardia a febbraio. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni potrebbe tirare la volata a Fratelli d'Italia proprio in un evento all'aperto, ancora da confermare, a Udine il 31, ma il partito può intanto già contare sugli arrivi dei ministri Gennaro Sangiuliano e Carlo Nordio, Cultura e Giustizia. Molto presente la Lega con diversi membri del governo, compreso il vice premier Matteo Salvini, ma ci sarà anche un appuntamento con diversi governatori giovedì 30, invitati da Massimiliano Fedriga a caccia del bis. Per Forza Italia dovrebbe vedersi il ministro degli esteri Antonio Tajani, nonché vice premier. A Roma devono ancora stabilire la data di arrivo della neosegretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che è pure attesa a Udine, dove anche il centrosinistra sta organizzando un evento finale di piazza per il 31 marzo. A sostegno dell'aspirante presidente Massimo Murituzzo arriveranno anche Bonelli, Civati e Speranza per Verdi Possibili, articolo 1. Carlo Calenda, fondatore di Azione, atteso il prossimo fine settimana per spingere Alessandro Maran, candidato del Terzo Polo. In quota Italia Viva e Più Europa ci saranno Maria Elena Boschi e Benedetto Della Vedova. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi in regione il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, che sarà innanzitutto a Gorizia con il sindaco Ziberna e poi a Nova Gorica con l'omologa slovena Vrečko per fare il punto su Go 2025. L'incontro è fissato sulla piazza transalpina, simbolo di condivisione, e poi altri incontri con i protagonisti della macchina della città europea della cultura sono in programma nel municipio di Nova Gorica. Altre tappe sono in programma successivamente in Borgo Castello, nel municipio di Gorizia, dove si parlerà anche di tematiche prevalentemente cittadine. Nel pomeriggio il ministro si sposterà a Trieste per una visita al Porto Vecchio con alcuni esponenti di Fratelli d'Italia, prima di recarsi ad Aquileia, dove sarà al sito archeologico con il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Alle 18 infine è prevista una breve visita al Sacrario di Re di Puglia. Campagna elettorale, come abbiamo sentito, verso la stretta finale, oggi numerosi appuntamenti di rilievo. A Pordenone arriva uno dei leader del Partito Democratico, l'ex ministro della Salute Roberto Speranza, che alle 16.45 sarà al Castello di Torre per parlare di sanità pubblica tra liste d'attesa, organici e privatizzazioni. Intervengono il candidato presidente della regione Massimo Moretuzzo e il segretario regionale del PD Renzo Oliva. Moretuzzo sarà anche alla Tisana con i candidati del Patto per l'Autonomia, alle 20.45 all'ex stazione Ippica. Le imprese della CNA interrogano la politica in vista delle elezioni regionali. La presidenza regionale ospita nella sede di Udine il presidente uscente Massimiliano Fedriga. Alle 17.30 anche in diretta streaming per tutti gli associati. Le PMI sono l'ossatura del sistema produttivo, ricorda il presidente di CNA Friuli Venezia Giulia Meletti, ed è quindi su di loro che i provvedimenti vanno tarati. A Udine alle 17.30 alla libreria Friuli saranno presentati le candidate e i candidati di Open Sinistra FVG nella circoscrizione di Udine per le elezioni regionali del 2 e 3 aprile a sostegno di Massimo Moretuzzo. E a Udine nuovo confronto tra i candidati sindaco, lo organizza la Confederazione Italiana Dirigenti alle 18 all'Hotel Astoria. Chiamati a partecipare Pietro Fontanini, Alberto Felice Dettoni, Ivano Marchiolle e Stefano Salmè. È partita ieri la stagione delle crociere per il porto di Trieste. Dopo gli ottimi dati dell'anno scorso, si stima che anche quest'anno per lo scalo giuliano transiteranno 500.000 di passeggeri. Il servizio. È partita sotto buoni auspici la stagione croceristica di Trieste, perché dopo il cosiddetto crash test, cioè la verifica della sicurezza svolta lo scorso anno, lo scalo giuliano si è dimostrato in grado di reggere il movimento creato da 500.000 passeggeri in transito dalla primavera a fine anno. Da qui l'obiettivo del gestore, Trieste Terminal Passeggeri, di confermare le cifre del 2022. Come conferma il responsabile operativo di Trieste Terminal Passeggeri, Alberto Grimaldi. Avremo sia chi farà operazioni di turnaround, ovvero sbarco in barco passeggeri a Trieste, sia le navi che faranno operazioni di call port, ovvero operazioni in transito, quindi passeggeri imbarcano in altri porti, scendono a Trieste a visitare la città e poi tornano sulla nave. Ci aspettiamo insomma un 50-50 più o meno. Diverso però il flusso generato con i 160 scali in programma a Trieste e Monfalcone rispetto ai 180 dello scorso anno, perché ora le navi non devono più rispettare restrizioni anti-Covid e possono ospitare un numero maggiore di transiti, un traffico che si spera possa generare ricadute di rilievo su tutta la filiera ricettiva regionale. Direi che la sinergia con il territorio è essenziale. È un'opportunità troppo grande per Friuli Venezia Giulia, per Trieste e Monfalcone nello specifico, ma mi piace pensare per tutta la regione il fatto di avere una stagione croceristica così piena. Le premesse ci sono già tutte, come confermano i giudizi positivi dei primi passeggeri d'oltreoceano ora attraccati al Molo Bersaglieri dopo la prima escursione in città. Enjoyable to see. Gradevolissima la piazza e tutte le persone che ci si ritrovano, i luoghi del caffè. Mi piacerebbe tornare qui anche in un'altra stagione, magari in primavera inoltrata o anche in estate, deve essere molto bello. Trieste, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'agricoltura e i cambiamenti climatici è il titolo del convegno promosso da Coldiretti del Friuli Venezia Giulia in sala IACE a Udine con inizio alle 10.30. Le previsioni non sono positive, spiega il direttore regionale della Coldiretti, Cesare Magalini. Il convegno vuole approfondire queste tematiche in una regione che pure negli ultimi mesi ha vissuto lunghi periodi di siccità. A oggi stiamo riscontrando una situazione difficile che segue un 2022 critico per carenza di precipitazioni. Sono previsti gli interventi di Rosanna Clocchiatti, presidente dell'Associazione Consorzi di Bonifica Friuli Venezia Giulia, di Angela Bortoluzzi, presidente Condifesa Friuli Venezia Giulia, e Anna Turato, delegata regionale di Giovani Impresa Friuli Venezia Giulia. E uno sguardo al rischio già presente della siccità ha caratterizzato anche la mostra florovivaistica a Villa Mannine di Passariano. Al centro fiori e piante, ma anche riflessioni sulla biodiversità. Seminare il futuro, coltivare la biodiversità. Fil rouge della 16ª mostra florovivaistica nel giardino del Doge Manin, ma anche titolo di uno dei libri presentati alla kermesse promossa dall'ERPAC, ente regionale per il patrimonio culturale. Chi controlla i semi decide di fatto cosa mangiamo, ma vende anche i pesticidi, dicono gli autori, e non ha interesse a promuovere varietà che non ne hanno bisogno. Salvatore Ceccarelli, già professore ordinario di genetica agraria. Il panorama agricolo che più frequentemente ci circonda è fatto fondamentalmente di relativamente poche specie. Pensate che noi il 60% delle calorie di origine vegetale viene da appena tre specie, grano, riso e gran turco, che sono le specie che utilizzano molta acqua. Stefania Grando, consulente internazionale per il miglioramento genetico vegetale. C'è bisogno di riportare biodiversità nei nostri campi e nella nostra dieta. E un modo per farlo è quello di tornare a coltivare specie di cui ci siamo dimenticati l'esistenza, come per esempio migli e sorgo, o anche le leguminose. La siccità è un fattore di cui si tiene sempre più conto anche nella scelta delle piante. Ultimamente c'è questa richiesta di piante che hanno bisogno di poca irrigazione. Chi vende piante aromatiche ha imparato che anche dettagli contano, come proporre vasi quadrati invece che tondi per ottimizzare gli spazi e non sprecare acqua. Quest'anno, indicano gli organizzatori della cooperativa agricola Monte San Pantaleone, i margini di guadagno per i piccoli vivaisti sono sempre più esigui, tanto che molti non riescono a sobbarcarsi il viaggio fino a Codroipo. Dal punto di vista dei costi, sì, purtroppo sono per certi casi più che triplicati, e mentre ovviamente il prezzo al dettaglio non può avere questi aumenti. Lili Soldatic, curatrice. Anche la difficoltà poi quest'anno specialmente con il riscaldamento, perché tantissimi non hanno più riscaldato le serre, per cui la difficoltà di avere piante pronte adesso in marzo è un po' complicato, però ce l'abbiamo fatta. Codroipo, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Di intelligenza artificiale si parlerà in un appuntamento organizzato dai giovani imprenditori di Confcommercio Udine alle 18 in Sala Valduga. Al centro dei lavori l'importanza dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'impresa e sulle sue possibili applicazioni per migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività aziendali. Partecipano tra gli altri Fabiano Benedetti, l'amministratore delegato di Bintec, Giuseppe Serra, direttore del laboratorio di intelligenza artificiale dell'Università di Udine, e Federico Vitiello, Digital Strategist. È morto a Trieste Giuliano Gelci, presidente dell'ARCI, straordinario promotore del servizio civile. Aveva 65 anni. Tra le iniziative a cui aveva dato vita anche il festival cinematografico Alpi Giulia, dedicato alla montagna che tanto amava, attraverso l'associazione Monte Analogo che presiedeva. Tutti a scuola, a piedi o in bicicletta è il titolo dell'iniziativa lanciata a Pordenone da FIAB per questa settimana. Da oggi fino al 24 marzo i ragazzi delle scuole, dalle primarie alle superiori della città, sono invitati ad andare a scuola o con la bicicletta o camminando. Abbiamo chiesto a Luana Casonatto, presidente FIAB a ruota libera di Pordenone e coordinatrice regionale, quali sono gli obiettivi di questa iniziativa. Gli obiettivi del Tutti a scuola o piedi in bici nella prima settimana di primavera, che è una campagna nazionale lanciata dalla Federazione Italiana Ambiente Bicicletta, si propone di promuovere la bicicletta come mezzo attivo e sostenibile che può essere utilizzato in alternativa all'automobile per raggiungere le scuole di ogni ordine e grado, quindi cominciamo dalle scuole primarie per arrivare fino alle scuole superiori. E quindi durante questa settimana, in maniera particolare, lo sforzo delle associazioni FIAB, non soltanto a Pordenone ma anche in altri comuni del Friuli Venezia Giulia, è quello di riunire il maggior numero di volontari possibili che possano aiutare, in particolare in questa settimana, aiutare i ragazzi a raggiungere la scuola in bicicletta oppure a piedi e accompagnarli, e in modo tale che anche quelli che normalmente non vanno a scuola a piedi o in bicicletta possano trovare una soluzione per poterlo fare. Perché a Pordenone? A Pordenone possiamo contare su un'associazione FIAB che è molto grande, che ha più di 500 soci, quindi un grande numero di volontari. Pordenone ha poi diversi istituti comprensivi. A Pordenone opera, oltre a FIAB, da molti anni anche un'associazione che si chiama Piccoli Passi, che ha contribuito con il comune ad organizzare i pedibus, e noi appunto diamo una mano per quanto riguarda le biciclette. E nelle altre città avete in mente qualche programma simile? In particolare anche FIAB Udine, FIAB Codroipo, per citare quelle più importanti, hanno iniziative di questo tipo che nascono durante questa settimana, che è la prima settimana di primavera, e poi culminano con l'organizzazione del grande evento nazionale dedicato ai bambini di FIAB, che è Bimbi in Bici, che quest'anno sarà la seconda domenica di maggio. Stare seduti è peggio che fumare. I danni della sedentarietà sono al centro dell'iniziativa del liceo classico Stellini di Udine, chiamata Pause di Salute, che nell'anno scolastico 2022-2023 ha introdotto delle azioni didattiche per promuovere il movimento in classe. I risultati del progetto saranno presentati oggi al convegno in Aula Magna dalle 9 alle 13.30. Ne abbiamo parlato con il professor Claudio Bardini. Queste pause di salute si rifanno a quello che è un concetto di promozione della salute e prevenzione di patologie cronico-degenerative. Questo è quello che ci dice la letteratura, che suggerisce di aumentare il tempo di impegno motorio dei nostri giovani per contrastare le abitudini sedentarie. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che i nostri giovani dei 5 ai 17 anni dovrebbero fare 60 minuti di movimento al giorno. Abbiamo lavorato proprio su un progetto di ricerca, prendendo 10 classi sperimentali. Abbiamo realizzato delle azioni didattiche finalizzate a promuovere appunto in classe il movimento per migliorare il benessere psicofisico, sostenere un apprendimento efficace, dunque migliorare l'attenzione e dunque ridurre i rischi, come dicevo, legati alla sedentarietà. Per cui ecco che oggi il liceo classico Stellini, davanti diciamo a una serie di relatori che sono di caratura universitaria ma anche, voglio dire, di altri settori, andremo a fare questa tour de force proprio per presentare quelli che sono i dati che sono legati appunto poi alla realizzazione di alcune tesi di laurea. Ci può dare qualche anticipazione di questi dati? Sicuramente abbiamo fatto una serie di questionari e di monitoraggio e sostanzialmente queste pause di salute portano sicuramente a maggiore energia, a maggior benessere, a un incremento di quella che è la concentrazione e dunque allontanare quelle che sono situazioni, come dicevo prima, di indolenzimento, di stati d'ansia e dunque di malessere generale che troppe volte è presente nei nostri giovani. 7.35, la pagina della cultura. 75 anni dalla cosiddetta dichiarazione tripartita con la quale i governi americano, britannico e francese raccomandavano che il territorio libero di Trieste venisse di nuovo posto sotto la sovranità italiana, una conferenza rievocativa è organizzata dall'Unione degli Istriani a Trieste nella sua sede di Palazzo Tonello alle 17. Al centro del pomeriggio una relazione di Gianluigi Ugo, autore di diversi saggi sul tema. La nota tripartita, i cui propositi non vennero mai realizzati, rappresentò un punto di riferimento costante per le rivendicazioni degli esuli istriani e per i triestini, i quali il 20 marzo del 1953 organizzarono una manifestazione in cui chiedevano il rispetto del documento pubblicato 5 anni prima. Fu l'inizio dell'escalation di tensione che avrebbe portato alle giornate di novembre, con morti e feriti tra i manifestanti giuliani a opera della polizia civile del territorio libero di Trieste. Si intitola A che punto è la notte, il primo appuntamento di Dedica Teatro con una lettura scenica tratta dal libro di Melide Kerangal, Lampedusa. In scena Lucilla Giagnoni accompagnata dalle musiche di Paolo Pizzimenti. Inizio alle 20.45 al convento di San Francesco di Pordenone. E ora gli spettacoli al Verdi di Pordenone, questa sera un atteso appuntamento con la musica antica. Jordi Savall, figura di riferimento nella rivalutazione della musica storica, suonerà insieme all'ensemble Esperion, il gruppo fondato insieme alla moglie con il quale da anni solca il grande mare della tradizione mediterranea ma anche quella berbera, afghana, bizantina. Nel concerto, anticipa lo stesso Savall, i brani presentati in sequenze alternate mostrano le differenze delle loro origini, orientale e occidentale. Basato sulla ricerca degli stili musicali propri di ciascun periodo, questo programma cerca di ristabilire un dialogo che rispetti l'identità musicale di ciascuno di quegli spazi culturali. Oggi più che mai, dice il musicista catalano, è importante credere che attraverso il linguaggio della musica lo scambio di idee ed emozioni espresse da musiche e musicisti di origini e culture così diverse sia possibile e necessario. A Monfalcone la stagione di musica del Teatro Comunale ospita alle 20.45 l'Accademia Strumentale Italiana in L'Arte della Fuga, ovvero il testamento capolavoro di Bach, in una inedita versione per violino, viole da gamba, violone e organo. I musicisti sono Rossella Croce, Alberto Rasi, Claudia Pasetto, Paolo Biordi, Michele Zeoli e Luca Guglielmi. Alle 20, al bar del teatro, per Dietro le Quinte, Mauro Masiero, critico musicale, introduce al pubblico il concerto. A Trieste slitta per una indisposizione il concerto del quartetto Kelemen, previsto per questa sera al Teatro Verdi per la stagione della Società dei Concerti. La nuova data sarà comunicata nei prossimi giorni. Al Teatro Verdi di Gorizia proda la commedia Tre uomini e una culla, un mix di tenerezza e divertimento in grado di affrontare con lievità e brio temi dibattuti attuali come il ruolo dei padri e i nuovi modelli di famiglia, con Gabriele Pignotta, che è anche regista dello spettacolo, Giorgio Lupano e Attilio Fontana. E a Trieste, al Teatro Bobbio, per il ciclo di teatro Aleggio della Contrada, il nuovo appuntamento è alle 18 con Tre sull'altalena di Luigi Lunari. La regia e l'adattamento sono di Elke Bu, anche interprete, insieme a Marzia Postogna, Veronica Dariol e Valentino Pagliei. A Gorizia, al Kulturni Dom alle 20, per la stagione del teatro stabile sloveno, va in scena Bodi Gledalisce e Teatro Sia, sovrattitoli in italiano. A Trieste, il quinto appuntamento dei lunedì dello Schmidl è dedicato al balletto Romeo e Giulietta di Prokofiev, che sarà in scena al Teatro Verdi di Trieste da domani al 26 marzo, nella produzione di Renato Zanella. Ne parleranno oggi lo stesso Zanella insieme a Oscar Cecchi al Museo Teatrale Schmidl a Palazzo Gopcevitz. L'inizio alle 17:30. E siamo allo sport, calcio in Serie A. Udinese all'ottavo posto dopo la vittoria della Juventus ieri sera contro l'Inter. È da adesso in poi che conta la classifica, sottolinea l'allenatore dei friulani Sottile. La vittoria contro il Milan ha riportato fiducia e grinta nell'ambiente. La primavera dell'Udinese intesa come rinascita, due pareggi e due vittorie, 8 punti nelle ultime 4 partite. Il successo sul Milan di Ibrahimovic mostra una formazione friulana superiore per gioco e intensità. Sottile riceve le risposte volute, a cominciare dalla scelta di Samarsic per far male al diavolo rossonero e dalla rabbia del rigore ripetuto alla rete di Beto, la chiave della mentalità ritrovata. Fino al gol di Kingsley Eizibue, 28 anni a maggio, nigeriano con cittadinanza olandese, la sua crescita parallela a quella della squadra e dopo la seconda rete in campionato una dedica per lui importante. La dedica grazie a Dio per me, perché Dio è tutto per me, sono credente. E di nuovo una classifica da guardare, quella dell'Udinese a quota 38 punti. Adesso sì che conta la classifica, aprile maggio conta la classifica e abbiamo 11 partite. E ci siamo anche noi, questo è l'obiettivo, ti dico, ci siamo anche noi e vediamo come andrà a finire. Ora la pausa del campionato, prima della trasferta a Bologna del 2 aprile alle 12:30, gara importante da giocare in emergenza senza 3 squalificati, Beccao, Perez e Wallace. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. In Serie C il Pordenone è incappato in una delle peggiori prestazioni di quest'anno. Neroverdi battuti 4-1 sul campo del Novara, che avrebbe potuto addirittura segnare di più. Di negro la rete della bandiera per la squadra del neo allenatore Mirko Stefani, per la quale si allontanano le residue chance di promozione diretta. Prossima avversaria tra una settimana la Pro Sesto sul campo di Fontanafredda. Ma sentiamo cosa dice il tecnico del Pordenone. Sarebbe troppo semplice scaricare la colpa sui giocatori o sul fatto che siamo entrati male, l'approccio sbagliato, la poca voglia, non esiste, insomma, quando si gioca a calcio questi sono gli aspetti che sono la base per affrontare il match della domenica, per cui con tranquillità, insomma, con serenità cercherò di analizzare i problemi soprattutto caratteriali e emotivi di questa squadra e apportare dei correttivi, perché io devo far tesoro che queste prestazioni non si ripetano, non tanto il trovare i colpevoli di oggi. E ora la Triestina, che pareggia in casa con il Vicenza. Gli alabardati vanno sotto nel momento migliore, ma a inizio ripresa trovano la rete dell'1-1, però un punto è troppo poco. Il pareggio non risolve la delicata situazione in classifica, ma il terzo risultato utile consecutivo è un piccolo passo verso la salvezza. La Triestina impatta in casa 1-1 contro il Vicenza, ma in fondo non può accontentarsi, vista l'enorme mola di occasioni creata soprattutto nel primo tempo. Protagonista Camillo Tavernelli, la seconda punta labardata, fa ammattire la difesa degli anerossi e più volte va vicino alla rete. Nei primi 20 minuti è nettamente migliore in campo, anche se la chance più nitida al 22esimo è sui piedi del centrocampista germano, che però arriva leggermente in ritardo e calcia sul fondo da buona posizione. Nel momento momento migliore degli alabardati, passa in vantaggio il Vicenza, Piacentini perde Ferrari sul corner e il capocannoniere del torneo di testa al 26esimo sigla l'1-0. La Triestina continua a premere, va vicino al pari con Paganini al 37esimo e con Bakogu al 44esimo anticipato all'ultimo. L'attaccante nigeriano sembra l'anello debole della squadra di Gentilini, ma si sveglia nella ripresa. L'ingresso di Tessiore, che sulla destra semina il panico nella difesa vicentina, è decisivo. Al 59esimo cross dalla destra del centrocampista arrivato nel mercato di gennaio e Bakogu pareggia di testa. La punta ex Carpi è protagonista di un gesto atletico notevole, con un'elevazione rara per la categoria. L'Unione preme per provare a far suoi i tre punti. Pezzella prende in mano la squadra, ma non basta, e anzi, su calcio da fermo Ferrari va vicino una rete che saprebbe di beffa. Nel finale poco calcio e tanti calci, rosso diretto per il vicentino Jimenez, ma è troppo tardi per cercare un assalto in superiorità numerica. Finisce 1-1, la Triestina rimane penultima in zona play-out con 4 lunghezze di margine sul Piacenza, ormai retrocesso, ma anche a 6 dalla salvezza diretta quando mancano solo 5 giornate alla fine. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. In Serie D doppio pareggio per le regionali, il Tor Viscosa conferma l'ottimo momento fermando sull'1-1 la Clodiense, seconda in classifica. La squadra di Pittirino sale a 31 punti ma vede staccarsi Montecchio, che ha vinto in trasferta contro l'Este. Finisce con un gol per parte anche tra Campodarsego e Tiallin Smuzzane, scontro diretto in zona playoff. Friulani sempre un punto sotto i rivali e per ora esclusi da un'eventuale coda di campionato. Siamo al basket, in A2 sconfitti sia Old Wild West Udine sia Gesteco Cividale. L'APU perde 81-70 sul campo della capolista Forlì, restando a lungo in partita. Nella squadra di Finetti 20 punti per Brisco e 17 di Monaldi. I ducali cedono addirittura a San Severo 85-83 per l'ultima partita casalinga della stagione regolare. Pepper 18 punti e Moha 17 nella squadra di Pilastrini, che resta sempre a 2 lunghezze da Udine. Nel prossimo turno APU Nardò e chiusi Cividale. E ora torniamo al calcio. Il goriziano Edi Reja è tornato a sedere su una panchina a 2 passi da casa nella massima serie slovena. Lo abbiamo incontrato. Edi Reja e il calcio, passione infinita per il tecnico di Lucinico, classe 1945, dopo 44 anni di carriera da allenatore, la voglia di rimettersi in gioco con il Gorizia. E abbiamo parlato, ho detto bene, va bene, tentiamo insomma questa avventura sperando di fare un miracolo, perché la salvezza è sempre più difficile, insomma, però ce la metteremo tutta e l'impegno mio sarà sempre massimale. Nella Prva Liga, la Serie A slovena, il Gorizia è penultimo, sarebbe spareggio salvezza. A quota 22 punti con 8 partite ancora da giocare, per Reja, dopo un pareggio e una vittoria, è arrivata anche la prima sconfitta con il Bravo. Dopo aver allenato squadre come Napoli, Lazio e Atalanta ed essere stato CT dell'Albania, sfide come questa però non gli fanno certo paura. Mi sono accorto che ho la stessa intensità di quando allenavo, diciamo, in Italia, no? Perché o si allena in prima categoria o si allena in Serie A, l'impegno è sempre massimale e difatti non dormo più la notte come dormivo prima, pertanto la responsabilità è grossa. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Biathlon, Elisa Vittozzi chiude al terzo posto nella classifica generale la Coppa del Mondo. La Sappadina, con 882 punti, si piazza alle spalle dell'altra azzurra, Dorothea Wierer, seconda con 911 punti, e della francese Simon, che conquista dunque la Coppa di Cristallo con 1093 punti. Nella gara conclusiva, la Mass Start di Oslo, Vittozzi è arrivata tredicesima, recuperando con un buon finale il ritardo accumulato con 4 errori al tiro. La prova è stata vinta dalla svedese Öberg, quinto posto per Wierer. Su una pista che pareva più adatta allo sci nautico, visto che a Tarvisio ieri faceva più caldo che a Grado, è andata in scena sui campi Duca d'Aosta la gara più pazza dell'inverno. Ascoltiamo. Con la vittoria di The Wallaby si è conclusa l'edizione 2023 di Crazy Bob, la più pazza e goliardica manifestazione invernale, e subito dopo largo ai festeggiamenti. Siamo i numeri uno veramente, come amicizia, come gruppo ce l'abbiamo messa tutta, e ringraziamo Tarvisio, tutti quelli che hanno fatto l'organizzazione, siamo veramente al settimo cielo. Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice ai 25 equipaggi provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia, dal Veneto e dalla Slovenia, per oltre un centinaio di partecipanti che si sono sfidati sui campi Duca d'Aosta a Tarvisio per la conquista del trofeo del Crazy Bob, la manifestazione che celebra ingegno, maestria, fantasia, affiatamento e spirito di divertimento. Un successo di pubblico ad assistere alle sfide dei partecipanti a bordo delle loro creazioni, a metà tra Bob e Slit. Attilio Quaglia, organizzatore. Noi abbiamo cominciato con i preparativi già a settembre, ma loro lavorano già dall'anno prima, si preparano proprio nelle cantine, si ritrovano nei garage e preparano questi mezzi che, come avete potuto vedere, sono attrezzatissimi, perfetti, guidabilissimi. Tanti problemi a causa della neve soffice sulle piste del comprensorio tarvisiano, innevate perfettamente dai tecnici di Promoturismo FVG, che hanno richiesto in diverse occasioni l'intervento delle motoslitte. Tarvisio, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. E cominciamo la nostra rassegna stampa con il Messaggero Veneto, che apre con l'aumento dello stipendio per gli insegnanti, in regione sono 20.000, e per gli amministrativi. In busta paga riceveranno 124 euro in più. Per i sindacati è una piccola cosa, in Germania, ricordano, prendono il doppio. A fotonotizia per gli alpini, si avvicina la Dunata e il gruppo di Atri ha già prenotato la piazzola. Si parla anche della visita del ministro San Giuliano d'Aquileia in programma per oggi. La fondazione va rilanciata, dice. E ancora, sono 2.200 le visite mediche per gli automobilisti trovati in stato di ebbrezza, e il numero più alto, quasi il doppio rispetto a quelle per problemi vascolari. Mentre per lo sport si registra la doppia sconfitta nel basket di Apu e Gesteco. La stessa apertura c'è nell'edizione di Pordenone, con l'aumento per gli insegnanti. La fotonotizia invece è per la grave sconfitta del Pordenone, battuto 4-1 a Novara. Nelle pagine interne il licenziamento di un bidello al Kennedy. Non ci sono riscontri contributivi per i lavori che sosteneva di avere fatto in precedenza. Infine il lutto di San Quirino per Giorgio Martine, morto nello scontro con un trattore. Siamo al Piccolo, che apre l'edizione di Trieste con il punto sul turismo. Pasqua verso il Pienone, dice il titolo su una grande foto con un gruppo in Piazza Unità. Due pagine nella cronaca cittadina fanno il punto sull'andamento delle prenotazioni, che per il fine settimana pasquale vede già opzionato il 93% delle stanze in centro. Altro titolo forte è quello sulla questione migranti. Fotocamere nei boschi lungo il confine, annuncia il quotidiano. Saranno presto in dotazione alla polizia di frontiera e alle altre forze dell'ordine. I questori di Trieste e Gorizia dicono utili per stanare i passeur della rotta balcanica. Anche sul Piccolo l'intervista con il ministro San Giuliano, realizzata per il Messaggero Veneto, in gran parte centrata su Aquileia. Del progetto per Go 2025, il ministro conferma che si sta lavorando a un evento che anticiperà di un anno il calendario della Città della Cultura. Nella cronaca il Piccolo torna sulla vicenda dei due anziani di via Ghirlandaio. La lettera lasciata all'avvocato non rivela i motivi dell'omicidio-suicidio. Nell'edizione di Gorizia l'apertura di cronaca è per l'allarme sui murales di Piedimonte. Non resistono più alle intemperie, ma la proprietà è privata e il comune non può intervenire. Da Monfalcone, occupazione per 70 operatori sanitari alla nuova residenza per anziani. Non solo mare e monti, città acchiappa turisti, è l'apertura del Gazzettino in entrambe le edizioni di Udine e di Pordenone. Aumentano così le visite nelle città della regione grazie alle promozioni. Al centro, sempre di entrambe le edizioni, la rivolta degli allevatori contro la direttiva europea sulle emissioni. Stalle equiparate a industrie è battaglia. Se dovesse passare, le aziende del territorio, per adeguarsi, dovrebbero sborsare dai 20 ai 30 mila euro. Al centro la fotonotizia per l'incidente a San Quirino, addio all'allevatore che amava il calcio. Nell'edizione di Udine il bollino di sostenibilità anche per i boschi di Cercivento, anche se il bostrico resta una minaccia. Nello sport il sogno europeo dell'Udinese si riaccende dopo la vittoria sul Milan. Mentre nell'edizione di Pordenone si parla dell'Assemblea Generale di Confindustria Alto Adriatico del 27 marzo a Trieste, dove saranno presenti 700 studenti. Secondo il presidente Agrusti, che ha deciso l'iniziativa, sono i prossimi ingegneri, medici, ma anche imprenditori. C'è il tempo per segnalare ancora qualche appuntamento della giornata. Comincia oggi in regione Grindhouse, festival diffuso di cinema europeo di genere, con 8 film che saranno trasmessi in 9 sale. Ad aprire la rassegna sarà Asbestas dello spagnolo Rodrigo Sorogoyen, che sarà proiettato questa sera a Cinema Zero a Pordenone con inizio alle 20.45. Il giro proseguirà domani a Trieste all'Ariston, poi giovedì al Kinemax di Gorizia e per chiudere al visionario di Udine venerdì. Nell'ambito della rassegna Pequod sarà presentato oggi il libro di Luigi Contu, giornalista e direttore dell'ANSA, dal titolo I libri si sentono soli, un memoir che racconta la storia della sua famiglia e in parallelo quella del paese attraverso i libri lasciatigli in eredità dal padre. L'incontro sarà condotto dalla giornalista di Repubblica Alessandra Longo con l'introduzione di Enzo D'Antona, presidente di Bonaventura Teatro Miela. I quadri teatrali di Pequod, che mettono in scena sul palco del Miela passaggi tratti dai libri presentati, saranno a cura di Ivan Zerbinati e vedranno sul palco Laura Bussani e lo stesso Zerbinati. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le notizie più importanti della mattinata a cura della nostra redazione. A seguire il programma in friulano parlerà di Aquileia che si prepara a inaugurare la stagione turistica. Alle 11.20 andrà in onda Tra le parole e il cuore, nella puntata di oggi la fatica, le paure e le incertezze dei genitori quando la malattia incontra un figlio. Poco prima di mezzogiorno, Nel segno del segno racconterà la mostra Italia 50, moda e design, nascita di uno stile che si aprirà domani a Gorizia, il decennio del Made in Italy e le opere dei più grandi designer dell'epoca. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Dario Ronzoni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Paolo Cassano e Federico Comar, ha collaborato in redazione Manuel Bussani. Le 7.54 vi lasciamo all'Onda Verde regionale, grazie per la vostra attenzione, buona mattinata e a più tardi. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.